computer. Alla fine, overclockando, uno era convinto di essere riuscito a tirare fuori una performance maggiore e non stava facendo altro che stressare il processore, che quindi si piantava prima del tempo previsto. Allora, il meglio di un libro stampato, buonasera a tutti. Buonasera Gian, ma questo io credo che lo sappia chiunque fa delle variazioni, perché questi apparati, soprattutto diciamo, non sono fatti per andare sulla pendenza, per essere stressati in AM. E per questo chiedo conferma a Claudio, cioè sarebbe bene non girarli, perché lavorano bene in banda laterale. Stressandoli in AM uno se ne assume le responsabilità, noi lo sappiamo, accettiamo il qualcosa. Mi avete rilanciato, stavo parlando qui con mia figlia un attimo. No, ho fatto una considerazione, ma non c'è niente. Avanti, sto uscendo sempre in condizioni precarie. Mi è partito l'alimentatore, si è ripreso e poi è ripartito di nuovo. No, non c'è niente da fare, vuole cambiare. Buonasera Gianni. Ciao. È possibile che sia qualche finale? No, questo alimentatore aveva già da... Questo qui c'ha tutta la studia. Mi ha mandato indietro tre volte me l'hanno cambiato. Sono tutti difettosi. E ti ho detto, non so che cosa sia questo difetto. Prima lo facevo una volta, vuol dire schiacciavo il tasto, si spegneva, lo riaccendevo e poi lo facevo più. Adesso proprio non si accende per niente. Ma tu avevi quello della prossima, io l'ho preso uno, spero che non avrò questo problema. Il 60, 55 MFA della prossima. Quanti amperi? 50. Io ho preso quello da 45. La 45 lo chiama Cristina e ha preso di... E cos'è questo? Da 650 ma ne darà 45. È stata 55 MFA. Tutti difettosi. Quello che c'è il doppio tasto davanti e dietro. Dietro per mostrarla, per metterlo qui. 38 davanti a della pentola e... Allora, qua c'è noise offset, vol adjust. Queste due scritte ci sono. E comunque è lui, Beh, uno ti regola eventualmente la frequenza, E l'altro è solo il volume. Volume, il voltaggio. Il voltaggio dovrebbe essere vol adi, eccetera, eccetera. Adjust, sì. Quello è chi punta ai voltaggi, dovrebbe esserci anche segnato il pallino dei 13 e qualcosa. Quello centrale dovrebbe permetterti un leggero cambio della frequenza. Appagato, vabbè, comunque in ogni caso non funziona più. Se lo rampemme, buonanotte. Cioè, ne ho cambiato già tre volte ho pagato le spese di spedizione io, tutto quanto. Adesso non è stufo di farlo mandarlo indietro, perché ti mandano sempre, o ti mandano lo stesso, oppure è quella la ragione, sono tutti difettosi, là. Non lo buttare, fallo vedere a legno, magari di continuare a cambiarlo. Vabbè, proviamo. Io ho quello della Telecom l'830. Esteticamente è nuovo, è l'ultimo che ho comprato. Però lì ci sono attaccate tutte le luci della stazione, ci sono attaccate altre cose, strumenti eccetera eccetera, le luci degli strumenti, di tutti gli strumenti, wattmetro, rosmetro eccetera eccetera, quindi non mi si elimina nulla, qualcosa, non mi biadia. Sono soddisfatto per il mobile, ma sono soddisfatto per quello che è successo. Avanti. Ok, dai, qui da questa parte è Fabrizio, sto provando che mi hanno sgridato, sto provando un attimino di fare due cose su questo apparecchio. Gianni, come ti sembra che stia uscendo? Bene, ma... faccio pace più in quarta, al massimo se partito. No, perché qui hai lavora a 10, ma a 1 è anche troppo, poi basta che adesso tra un basta marcia che lo sfiori e questo il problema di queste radio, sono tutte più o meno così in AM. Ascolta, come ti chiama la radio? Peggiorata, migliorata oppure la solita che tu mi hai sempre ascoltato già? No, ha migliorato, più forte. Ok, perché adesso vediamo chi c'è in ruota, perché mi dicevano che aveva peggiorato, boh. Avanti chi c'è in ruota, che io mi sono spostato a fare due regolazioni, avanti Sabato. Fabrizio, cosa hai toccato per te? No, sono dei parametri, ci sono dentro, 3-4, perché poi devi giocare su un paio di parametri, non so, per darli i picchi positivi e soprattutto devi chiudere e stringere un attimino. Un po' dai, non dà fastidio, ma molta gente magari sì. sembra bassina però dallo smitter. Vabbè, ti ho fatto. Vabbè, vieni avanti già. Ah, scusa, Anto. Falsa un po'. Ora, uno, due. Oh. Ecco, guarda adesso, guarda adesso. Perché è millimetrico, già lo conosci questo apparecchio. Vieni avanti, Anto. Ok. Gianni, ti va bene? Guarda qua, da come sono entrato in ruota adesso è diminuita o va meglio? Cosa è successo? Adesso va bene, dai, adesso la puoi lasciare così, a me va benissimo. Andava bene anche prima più bassa, comunque va bene, dai. Ok, Massimiliano. Ti puoi dare un po' di ripieno ambientale? Un po' di? Ambientale, come adesso sembra quasi amplificata, però mi manca un po', hai preso la differenza col processore senza? Adesso c'è il processore, però aspetta, no, non credo che... No. Mi manca un po' di ambiente. Allora, un po'... Va bene, dai, adesso mi sono spostato, questa più o meno è la posizione che utilizzo, era attaccata al muro. Ha detto scusate, ma io non ho possibilità di ascoltarmi come un po' tutti voi, vi mettete le cuffie perché non mi ascolto, capito? Riprendi Antonio, fai girare così l'ultimo controllo e chiudo il tappeto, il tappo, dai. Ma guarda, io poco fa quando l'ho abbassata ho sentito effettivamente il tuo tono di voce reale, perché quando l'alzi è vero che amplifica, è vero che dà quell'effetto, come dice lui, ambiente, però è anche vero che si sente, va in risonanza e tende un po' a sporcare la modulazione. Vabbè, però va bene, cioè è comprensibile, non c'è nessun problema. Buonasera Salvatore, è aumentato il mio segnale da ieri a oggi nella tua zona? Salvatore? Ringraziamo Salvatore per la solerzia del suo intervento. Sì, deve essere addormentato come al solito sotto la tastiera. Sì. E allora, a girare per il doppio room. Comunque dai, già, va bene, di tutte le maniere va bene anche quando sei forte. In ogni caso va bene prima, va bene adesso, perché con la radio io ascolto molto forte anche quando sono fuori. Quindi ti ascolto sempre chiaro, forte e bene, dai, dai. Quindi non c'è nessun problema. Però sei tornato come eri la volta avanti ieri. Perfetto, cioè va benissimo così. Non so se poi alla fine sia, a seconda di come si salda, ti porta qualcosa. Cimì, già la conosce molto bene anche a Chiele, questa radio. Ci sono sul filtro, lì ci sono dei controllini dove tu puoi aumentare un po' la potenza, puoi giocare un po', quindi poi devi bilanciare l'LC, due cassettine lì, quindi potrebbe essere che magari abbiamo dato troppa potenza e quindi magari in alcuni picchi si allargava troppo, diciamo, dalla portante magari si allargava, oppure non riusciva a seguire la portante, riusciva a seguire il segnale della portante modulata, non riusciva a seguire la portante. Quindi sono tanti parametri, poi credo che sappia bene di cosa sto parlando e probabilmente, infatti quando uno fa queste cose poi ovviamente gli servono i consigli dall'altra parte e sentire come ti sembra migliorato, peggiorato, per vedere se riesci. Erano troppe magari watt e non riusciva a seguire la portante modulata, credo. Avanti Archimede per girare. Vabbè, questo già va meglio rispetto a poco fa, era troppo, era fuori dai parametri, comunque già va bene. Vabbè, quello che dice Gianni è buono, perché quando ci si allontana, il segnale si abbassa, allora aiuta un po' più di spinta vocale della voce, ecco. Ma qua già va bene, dai. Già si può usare, poi magari bisogna fare attenzione a non urlare troppo al microfono, perché sennò poi dopo tende a distorcere. Sì, allora tu sai benissimo che adesso magari potremmo entrare leggermente a poco, ma quello lo fai dal microfono, capito? Quindi puoi abbassare. Sì, ma infatti no, quello lì poi te lo regoli con la regolazione esterna, perciò no, non ci dovrebbero essere problemi. Per me un attimino. Tu perché sei così basso? Ma è basso? Cioè, il segnale è 9,10 con picchi fino a 9,20, però la modulazione è bassa, eh. Nel senso, diversa da quella che ho vissuto. Tu tieni conto che rispetto a tutti noi ti sto sentendo basso come mi chiedi, non so gli altri come ti sentano, ma io gli altri li sono tutti quanti belli forti, pimpanti, te ti sento basso, come se usassi un microfono normale, dinamico, senza niente. Allora vedi che te ne senti. Allora per quella. Usando un Alancetto Plus con un microfono scagancio della CTE, bravo. Ecco, sentiamo quello che... Vabbè, no, ti sento sempre basso di modulazione, poi ho già c'ho le cuffie, ho aumentato un po' il volume. Sapete che poi quando parla Gianni con il doppio room mi ubriaca tutto. Però già no, te l'avevo detto, ho un TH diverso, quindi... apparato, anzi baracchino, anche scagancio, quindi è già tanto se mi stai ascoltando così tanto. Quell'orecchio sono attino per me, complimenti per l'orecchio. Ah, bella la tua lampada Tesla, eh. Sentito Maximiliano? Scusami, ma è passata una bionda qua e mi ha distratto, anzi distraggiuto. Hai una bella lampada Tesla. Ah, sei andato a guardare lì quando avevo voglia di giocare con i 15.000 volts. Mi ha fatto tanti esperimenti, sapete che gli altri non sono riuscito, cioè non ho mai avuto voglia di riprenderli e metterli nella come si chiama? Su YouTube. Dopo questo circuito creo un avvolgimento, ci metto dentro un cacciavite diverso, completamente rosso. Praticamente crea una sorta di cortocircuito nella barra del cacciavite, ma il cacciavite è rosso, in un attimo diventa rosso, lo scalda. Poi ho fatto il circuito per alimentare una lampada wireless, praticamente è un'induzione magnetica, da una parte crea un forte campo magnetico, nell'altra basta che anche se sta lontano riesco ad accendere una lampadina 220, non una lampadina dolce, 220. Lo stesso dispositivo che ci usa nei caricatori per gli spazzolini o quelli per la barba, quelli elettrici, quelli senza filo, senza contatto. Lo stesso dispositivo. Quello crea, per fare quel gioco, lì ci sono un gioco intorno ai 15.000 volt. Poi ce n'è un altro con due ferri, adesso non mi ricordo, c'è un nome, però mi sfugge il nome, due ferri che sono distanti un paio di centimetri e faccio scoccare l'arco e parte dal basso fino all'alto che si allarga l'arco voltaico e scocchetta. Aspetta, blocca. No? Allora io ti ho fatto i complimenti per la lampada Tesla perché nella foto che hai sul sito dell'ARI, al quarto ripiano della stazione lì, hai una lampada Tesla. Poi tutti questi esperimenti che io tra l'altro ho fatto sono visibili sul mio profilo Facebook, non sapevo li avessi fatti anche tu, come quello di accendere una lampada al neon utilizzando un raddrizzatore di quadro di televisore vecchio. Che lo stesso c'è un'induttanza elettromagnetica che ci mette nella condizione la lampada di accendersi, perché il gas prende fuoco anche stando non a contatto, diciamo, diretto con la corrente. Però tutti questi esperimenti quindi li trovo su YouTube, dai, faccio un salto, guarda, per cosa ha come parametri di ricerca. No, aspetta, io non ho acceso una lampada al neon, io ho acceso una lampadina a filamento 220 e ho realizzato un generatore Royer, si chiama, che genera forti correnti con tensioni basse. Poi col principio del trasformatore in aria, perché il principio è la base per costruire proprio il Tesla, però io l'ho utilizzato per realizzare dei forti campi magnetici. Quello della lampada l'ho usato una lampadina a 220, poi questa lampadina ho alimentato solamente un polo e gli ho fatto attraversare da 15.000 volts e ho ricreato lo stesso gioco che si crea con quelle lampade Tesla che si trovano in giro, quelle che si acquistano, le cosiddette lampade plasma, però io l'ho fatto con i 15.000 volts, quando io avvicino il dito proprio si vedono dentro il bulbo i vari archi voltaici che partono, senza contare il forte odore di aria ionizzata che si crea. Adesso sul coso non me lo ricordo, comunque con il mio nome attivo dovessi provare a cercare, che sarebbe Italia, Santiago 0, Genova, Udine, Palermo. Provo a cercare questo nominativo su YouTube. Sto pensando una cosa di cui non credete sicuramente. Una scherzata, però è parecchio vuoto. Stiamo dicendo tutti quegli esperimenti, però li ho fatti anch'io, perché non a caso l'associazione si chiama Nicola Tesla. Ho cercato anche di ricostruire il famoso motore a magneti permanenti a moto perfetto. Ho costruito, se guardi c'è una bottina, ma la non la gigante, la turbina Tesla. Sì, quella campo magnetico, quella la conosco, ci ho giocato. No, e quello che ho fatto io è il generatore Royer. Questo cacciavite non ho capito esattamente come fa. Ma che generatore, io ci sono la paia 220 con le mani. Sì, quello lo puoi fare con frequenze elevate, perché la corrente passa a effetto pelle. Quello del cacciavite, praticamente, all'uscita del generatore Royer ho creato un doppio avvolgimento di, sono 4 più 4, 4 spire più 4, ho fatto circolare la corrente. Quando inserivo il cacciavite dentro le spire, il cacciavite, essendo del metallo, si concatenava col flusso magnetico che c'era all'interno della bobina e il risultato è in cortocircuito, perciò un elemento in cortocircuito con forti correnti scalda l'elemento e il cacciavite diventava rovente. Sono questi esperimenti anche se non per colore, se va nel mio profilo peso, se trai, li trovi tra i miei video. E cosa devo cercare? A chi devo cercare sul profilo Facebook? Gianni Doppio Rum. Gianni Doppio Rum devo cercare. Gianni Doppio Rum l'ha accesa con le mani, l'ha pagato 220. Io mi accorgevo sempre di dare la scossa a tutti, dicevo un giorno ho accesso nel lampadina, vediamo se sei così elettrico, la c'è la lampadina, mi porta la lampadina, ha fatto un lampo, come io ho messo un dito nel positivo e nel negativo, cic, si è accesa per un attimo. Accesa con le mani, si è andato con l'interruttore e si è andato. Che interruttore, non è usato interruttore, filo diretto. Tu potrai anche non crederci, ma è successo davvero. Questo livello, vabbè, c'è una cosa troppo privata di baciarmi, cavolo, e fare la scintilla nelle labbra. Quello che capita anche a me, anche stasera, stavo dando un telecomando a mio figlio e gli ho girato la scossa elettrica, ma queste sono correnti statiche che noi accumuliamo e poi scarichiamo quando magari c'è un conduttore, una persona che magari, perché mio figlio era con sempre con le case, perciò era verso terra, era fatto da scaricatore. Quello dipende dagli indumenti che noi usiamo, tipo di scarpe, magari io ho una serie di quelle da ufficio che ha un materiale acrilico e come mi sfrego faccio, tendo a caricarmi. Thank you. vai, se vuoi sapere il nome e cognome, vai all'inizio dell'applicazione e c'è lo sto facendo fatica ad ascoltarti, devo aumentare il volume, parla un po' più forte sopra quel microfono. Sono di qui, vai, associazione Nicola Tesla, Nicola con la cacca, e dice il nome di Antonio Grotte, nome e cognome, e lo cerchi su Facebook. Ah vabbè, esatto, sarà fatto. Ciao Gava, grazie, sono un attimino in querenza. Kappa. Devo controllare questa diventatoia, mi sta dando fastidio. Mi troppo vedete più luminoso di notte che buio, è strano. Becchi Gianni? Ciao, giù. Cavolo, un po' di sorpresa ho avuto stasera, sono rimasti piazzando questa roba. Mi si è fulminato la lampadina, mi ha fatto l'alimentatore. Funzionava tutto quanto, poi di colpo, deve essere cosa è stata spostata la roba, ma chi ne sa. Bisogna vedere cosa è successo. Avevo sbagliato qualcosa. Ciao già, ciao Massimiliano, Giulio Bolla da questa parte. E ciao Antonio Volta, in QRX. Allora ti hai sistemato tutto per bene? Cappa, sì, ma non ho sbagliato nulla, dicevo, ho messo tutto, l'alimentatore non è che sia difficile attaccarlo, basta che metti una presa e fatti il gioco, non è quello. L'altro è una lampadina, accendetela, però si è fulminata, era attaccata bene ma si è fulminata, ho dovuto aprirlo e cambiare la lampadina. Questo qua non funziona più, quello da 50 ampere che tu mi hai detto che era bello, non funziona più. Ho capito. Vabbè. C'è Massimiliano che ti dà una mano a aggiustare l'alimentatore, dunque non ci sono problemi. Massimiliano è pieno di grossi in questo periodo. Anche quello può fare, eh? Che problemi ci sono. Bene Massimiliano. Male mi viene, comunque buonasera anche a te Giulio. Ma mi hai detto di andare all'associazione Nicola Tesla, ma sempre su Facebook. C'è. L'ho trovato, c'è a Nicola, vedo, ma non vedo altro. Cioè vedo i vari posti che sono stati fatti. È un po' buco. Non riesco a vedere l'inizio. Vabbè dai, che riesco a vedere. Quelle luci hai messo già, quelle lucette che avevi nell'altro tavolino? Tutto, le luci però le attaccate dirette, attaccate all'apparato e illuminano l'apparato. Ho capito. E adesso con il tavolino scuro, con le luci, che effetto fanno? Diverso sicuramente da come la prima? Vengono bene, tutto bene. L'unica cosa che mi dà fastidio è su questo alimentatore che dovrò togliere e controllare a vedere cosa può avere. Magari sarà saltato il fusibile, chi lo sa. Ma non è che hai attaccato qualcosa invertendo la polarità, no. E allora è saltato il fusibile in quel caso lì. Oppure, ascolta, guarda che quegli alimentatori sono protetti. Tu dovresti staccarlo dalla corrente, aspettare un attimo di attaccarlo. Prova a fare così, perché adesso che ricordo bene, è successo un tempo fa, è successo a me una cosa del genere. E siccome vanno in protezione quello, no? Poi dopo un attimo si ripristina. Beh, si è acceso, allora è andato in protezione, l'ho spento dal gas, che c'ha 1 e 0, no, l'ho messo su off, e l'ho spento da lì, è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, già. Non è la stessa cosa, perché magari il tasto può essere inserito nel polo negativo, e sempre tensione, cioè, prova a fare in quell'altro modo, stacca la spina direttamente. Aspetti per un attimo in modo che la carica dei condensatori si esaurisce e dopodiché riprovi. È possibile che possa essere anche quello, guarda. Perché ripeto, quegli alimentatori switching vanno in protezione, anche gli altri penso. Ci sono, Sono tutti in ordine, rosso con rosso, fermalo con me. No, è troppo forte il microfono, o già, siccome sono in cuffia non ti capisco troppo bene, perché se abbasso io poi mi sento magari Gloria che poc'anzi era bassissimo nel radio da me. Massimiliano io lo sento bene ugualmente, non ci sono problemi, ma la radio di Gloria era bassa. Ripeti già per cortesia. ho detto che praticamente ho controllato adesso e sono praticamente sono attaccati bene i fili, sono rosso con rosso e nero con nero, quindi non ho fatto nessun macello, non è da lì. E poi faceva questo rumore, te l'avevo detto, adesso non accende più nulla. Ecco quel rumore, perché è andato in protezione, Gianni, stacca la spina dell'alimentatore e ritentaci. Guarda che probabilmente, ripeto, è successo un tempo fa. E anch'io ero convinto, ma è partito l'alimentatore. Invece, dopodiché, stavo ancora lavorando, poi sono staccato la spina, poi mi ha attaccato e si è ripristinato tutto alla grande, capito? Ci sono, Ok, avanti. Ciao, no, forse mi sono allontanato un attimino, non so se mi avete bussato, dai, sono sempre qua. Ok, ciao Fabri, Giulio da questa parte, non stavo appunto dando una dritta a Gianni perché è un problema alimentatore, suppongo che sia successo quello che è successo nel tempo fa. Riprendi Fabri, c'è anche Massimiliano e Globe che è un po' in quelle X, cioè almeno 5 minuti. Ok, ciao Massimiliano, ciao Giulio, ben sentito, ero qualche giorno che non ti sentivo, ben sentito. Quindi già, nuovamente problemi l'alimentatore, ti ha dato. Brecco. Avanti Brecco. Ehi, saluti Salvatore. Ciao Salvatore, ben rientrato. Ti stavo dicendo, ciao, cosa ti ha dato? Problemi l'alimentatore nuovamente. E adesso però se accende più, fate quello, si è acceso un attimo, poi si è spento e non ha più riacceso. Hai provato a controllare dentro? No, non l'ho nemmeno aperto, io lo avevo praticamente solo soffiato, butto la polvere tutto lì e basta. Aspirato con l'aspirapolvere piccolina di quelle della macchina e poi niente, no. Dentro c'è qualche cosa però che si sente una cosa del genere, tipo come se ci fosse un corpo. Ho capito, poi sono switch quelli, non è che ci per il costo che hanno, sono switch una volta che iniziano così. Questo è un 50 ampere, ma è di quelli Proxel, c'ha un sacco di roba, c'ha il coso per la frequenza, c'ha il tastino per metterlo su il tuo fisso, c'è tante cose, tanti attacchi con diverse tensioni, c'ha un sacco di roba. E allora si potrebbe controllare, è un peccato, solo che i prezzi sono talmente scesi che ho capito, ti voglio dire, però si può controllare, strappa praticamente, senti, quel rumore lì, no? E come c'è qualche cosa che fa corto, c'è bene, una cosa del genere. Ma quello lì non è in garanzia, se non sbaglio. Ascolta, ne sono stufo, le ho mandato tre con lo stesso difetto. Per tre volte mi hanno spedito l'alimentatore, questa addirittura me l'avevano preso dalle poste, sono dovuto rincorrere in un amico perché c'erano più di un mese, non si trovava la traccia, non sapevano dove era. Guarda, un casino, un amico che lavora alle poste si è riuscito a rintracciarmi e a farmelo mandare direttamente a casa. Quando è arrivato aveva lo stesso difetto degli altri. Me l'hai raccontato, una cosa assurda, strano, io c'ero lo stesso mio, che cos'è? Aspetta, Già, ascolta, ma tu hai fatto alla lettera come ti ho detto io, tu, cioè, eri attaccato, l'hai spento e l'hai acceso subito, cosa hai fatto? No, ancora non l'ho riacceso, l'ho lasciato staccato ancora, non l'ho riattaccato giù. Una spina della presa deve staccare. Aspetti un attimo, se fa lo stesso difetto che ha fatto nel mio, si ripristina sicuramente, guarda. Perché quando ancora i condensatori sono carichi, allora istantaneamente non si accende, se tu lo stringi poi li accendi subito. Mentre invece ti trattiene un attimo, i condensatori si esauriscono dalla corrente che accumula e dopo un po' si ripristina. Però nel mio funziona così. Non c'è la scheda quello. Infatti la scheda questo qui. C'è la protezione, Claudio, c'è la protezione della Regione Giulio. Entrava in protezione anche l'altro, se poi inverti pure entra in protezione, si spegne, poi lo riaccendi e si riaccende tranquillamente. Allora, se ti fa quel problema, cosa c'è la protezione quello lì? K. E quindi quando entri in protezione e ti faceva lo stesso rumore, così faceva, no? Sì, faceva... E allora potrebbe essere qualche diodo, che sta tornando corrente indietro. Allora, bisogna controllarlo, perché... Prima per dire, accendeva una volta e si riaccendeva e si spegneva subito. Poi lasciava riposare un po', lo accendevi e ti durava tutta la sera tranquillamente senza darti problemi. Adesso però si è spento, non si riaccende più. Boh. Ascolta, una volta che lo apri lì, tu sei in grado di controllare i diodi? Sì, ma cosa devo fare? Per controllarli, cioè non so come controllarli, con che strumento, col tester. Col tester, fai come l'acqua, semplice. Teoricamente vanno smontati, però un controllo veloce glielo fai col tester. Metti i puntali, da una parte deve darti continuità e giri i puntali, dall'altra non te ne deve dare. Questa è la prova bucacciona, diciamo, però già ti dà un'idea se c'è qualcosa che può avere problemi. Poi se te ne trovi qualcuno che non funziona così, a quel punto lo dissaldi e lo controlli dissaldato, almeno da una parte lo dissaldi, e se ti fa lo stesso difetto quello è partito. Quella roba lì potrebbe essere, sai, perché se mi dici lui in protezione quando arriva un massimo di corrente tra e torna indietro e va in protezione, quindi potrebbe essere qualcosa del genere, però io ho paura che sia un problema di progettazione, perché se su tre te ne hanno fatto tutte e tre, oppure una partita difettosa, capito? Sì, infatti, io gli ho detto mandatemene un altro che abbia più o meno lo stesso prezzo, anche se ci perdo qualche cosa non mi interessa, però interessa a te che mi funzioni, se mi ha dato un 35 amper mi va benissimo, non è che non me ne frega nulla se anche un 35 amper invece che un 50, però l'interessante, tanto prendo il 50 io ho esagerato, ma l'ho voluto prendere, detto magari attacchi qualche cosa in più o cose del genere, la resiste bene, capito? Sì, anch'io avrei fatto così, magari hai aggiunto 15-20 euro in più e hai preso il 50, l'avrei fatto anch'io, che okay, quello è logico, ma cosa ne sai? Magari prendevi il 35 e era il 35 difettoso, poi quello non lo puoi sapere già. No, perché il 35 se no va benissimo, Fabri, per quello te lo dice. Però quando l'hai preso, che ne sapevi, magari prendevi il 35 ed era quella la partita difettosa, e non è che dici no, non prendo quello perché quello è il caso, è andata male. Vabbè, pazienza. Comunque sconsiglio a tutti di prenderlo questo qua. È il modello 6055 NFA. Super accessoriato, con 1000 tensioni per attaccare tanti tipi di tensione, c'è l'attacco accendi sigari, c'è attacchi dietro, era super come serviva a me. Però purtroppo non è andata. Avanti Giulio, riprendi tu e fai girare, che adesso provo a riattaccarlo, vediamo un po'. Aspetta, Gianni. Ehi, 60-55 NFA. Papa. Io ce l'ho da un bel po' di tempo e mi hanno caricato sopra, no, non ha mai dato problemi. E il modello che c'ha anche il noise, se non sbaglio, sì, il noise offset, che serve quando sei in banda basse, che molte volte ci sono questi alimentatori che hanno delle frequenze e può dar problemi, se per spostare la banda passata della frequenza dell'oscillazione. Abbiamo non ha mai dato problemi, funzionano benissimo. Sei stato sfortunato tu. E allora mi hanno mandato sopra lo stesso che rimandavo io, cosa vuoi che ti dica? Tre ne ho cambiato, non uno, tre. Ti ho già, lo stavo sentendo. È strano, ma penso che l'abbia fatto, la prova ad accenderlo senza il touch, senza collegargli niente. No, con la prova non l'ho fatta. È la prima cosa che si fa. Allora, come hai detto Giulio, questi qua vanno in protezione, se non gli togli il carico, devi togliere il carico, cioè scollegare tutto, poi stacca la spina, aspetta una decina di secondi perché scarica tutti i condensatori e poi riinserisci, accendi tutto senza carico, guarda se si accende. Allora facciamo così, vediamo un po'. E questo te l'ha detto uno delle siede. Vabbè, ok. Intanto saluto Salvatore che è entrato, e anche Claudio che ha fatto una facciatina alla finestra. Grazie, sì. Non è a voi. Avanti Salvatore. E K. Salutoni Giulio, salutoni tutti quanti. Vi ascolto con piacere, che sto facendo altra roba. Ciao Max, ben risentito. Ciao Fabrizio, Gianni e Antonio, mi sembra. Poi se ho dimenticato qualcuno, scusatemi. Riprendi pure Fabrizio. Ok, la riprendo io. Ciao Salvatore, ben sentito. Quindi siamo rimasti io, tu, esci che riepilogo, per io mi serve perché ho questa memoria labile. Io, tu, Massimiliano, Giulio e Gianni, e mi sembra che c'è Claudio che è in QRX. Io rilancio a Giulio che farà girare. Ok, io vorrei chiamare a Glover per vedere se è rientrato. Glover, sei rientrato? No, evidentemente no. Vabbè, ma se andiamo, avanti. Ciao Salvatore, ho richiamato l'antenna con l'uncinetto stanotte. Guarda un po' se si è aumentato il segnale, adesso tu mi arrivi a 9:40. Aspetta che non stavo guardando, rifai Massimo un passaggio. Guarda un po', che si sta dicendo, ho fatto l'antenna all'uncinetto, l'ho messa bagnata nello stenditoio, infatti ogni tanto vado col secchio a bagnarla, se no non riesce a radiare bene. Hai una portante 9:30 e modulata ai 40, è salito rispetto ai giorni scorsi. Anche tu, di solito 9:40, sì, anche tu, vabbè, perfetto, vuol dire che l'uncinetto mi è uscito bene. A chi tocca? Boom, ho perso a Fabrizio. Sì, riprendo io. Ho capito questa cosa dell'uncinetto, comunque, poi al prossimo passaggio spiegherai. Va bene, Gianni, aspettiamo che abbia attaccato tutto e pure un rilancio. Vediamo se c'è Claudio. Avanti Claudio. Claudio non c'è. Vediamo se è rientrato. Se è rientrato Gianni. Gianni, avanti. Io ho fatto tutto, mi ha fatto un lampo, cosa che prima non faceva, sono accesi gli strumenti e poi si è rispetto. Quello in protezione, sta andando in protezione. Sì, ma senza carico, giusto? Cappa. Ti sei sfamato qualche dio da dentro. No, che strano. Ripeto, io ce l'ho da un bel po' di tempo. Ripeto, l'ho caricata a morte. Però senza nessun problema, secondo me per tre volte ti avrei mandato sempre lo stesso, ma sono alimentatori che vanno bene, io ci ho tutti così ormai, io so anche uno, la Daiwa, che ho rifatto un po' dietro, e praticamente quanto ci avrà adesso? 60-70 ampere di continuo, e gli ho rifatto il ponte raddrizzatore, gliel'ho fatto con il MOSFET, l'ho praticamente configurato in modo da utilizzarli come se fossero dei diodi, però ogni MOSFET ha 90 ampere di lavoro, una formatrice praticamente ho fatto, poi guardate c'ho tutti quanti switching, però mai dato come, e addirittura adesso per tirare questo capo sto usando uno piccolino che è il 832 NFA, che vabbè va di picco 30 ampere, però è minuscolo, l'avevo preso da Luca, ma l'aveva venduto, non so se te lo ricordi, il primo che aveva preso, che poi me l'aveva venduto a me. Ugualmente funzionano tutti bene, funzionano, non mi danno problemi nessuno di questi qua, ma sicuramente ti è capitato proprio quello guasto, Gianni. No ragazzi, io volevo una buona notizia. Si è ripreso. Ecco, solamente con la voce che ti si è ripreso, va, si è spaventato. Ma allora controlla che non abbia qualche costo in qualche carico che gli metti, se lo faccia andare in protezione. Prendi, mi levi un caffè. Può essere anche un altro motivo, Massimiliano. Poi mi rispondi se io per esperienza l'ho potuto constatare. E se c'è ad esempio anche un rosso meteorite attaccato, che so io, un PL che magari il polo caldo non è troppo aderente, diciamo, al contatto, che è un po' scarso come contatto, anche quello va in protezione anche per quel motivo lì, oppure che so io una spina di un barattino che non è proprio perfettamente in contatto, e questi spinotti che noi usiamo, no, alle volte quando li infiliamo dentro le boccole non sono perfettamente in contatto, magari accendo l'apparecchio, però anche in quel caso lì questi tipi di alimentatori vanno in protezione, confermi Massimiliano? Sì, è capitato che andassi in persone in protezione anche con un vetro di RF, romano in blocco. Ma io avevo problema di questo padre che stavo studiando adesso, che questo fine settimana mi ha fatto danare un pochettino, che praticamente lo andava a accendere e mi andava in protezione, ma perché c'era l'interruttore dell'apparato che si era rovinato, conduceva una parte non conduceva, e mi mandava mi incasinava l'alimentatore, ma andava giustamente in blocco, ma nulla di che. Gianni, ti devi controllare il carico, sicuramente c'è qualche cosa che ti sta rompendo le scatole. Infatti, ma se mi dai così, vabbè, l'esperienza che ho fatto con tanti anni da elettricista, a qualcosa alle volte serve. Vabbè, a proposito, Massimiliano, non ti ho più visto passare in via Cesbi, lì da parte della mia bottega. Cos'hai cambiato la zona? Ehi, ho cambiato. Infatti se ti capita di passare dove abitavo prima, antenne non ne vedi più, se non quella della televisione, lì il tetto è tornato libero. Ho capito, non ci ho fatto caso, mi sono passato ieri e non ci ho fatto caso, cioè non ho guardato in alto, che solitamente guardavo il tetto sempre, vedevo tutte le antenne ben sistemate lì, e di pugni di ogni genere, eccetera, eccetera. Va bene, meglio così, tutto bene allora. Bene, vediamo un po' cosa ci dice Fabrizio, vai Fabrizio. Meglio così che si è ripreso, comunque con fai quei controlli lì, sì, sono d'accordo con quello che stava dicendo Giulio, Massimiliano, basta poco perché sono switch, quindi risentono di poco, però perché è strano che, come dicevi tu, no, su tre ti hanno dato problemi, capito? Tutto può essere, molte volte il caso, molte volte può essere anche. Dai, riprendi Gianni e dimmi se comunque in tutto, perché sto modulando già una mezz'ora, sei rimasto tutto invariato poco fa. Allora io se sono in carico, sto caricando, mi lascio un po', vogliamo un pochettino, carichiamo tutto. Ora, sta andando di uscio, sta andando tutto di uscio, non mi sta più dando problemi. Sì, va bene, dai, speriamo bene, provalo, ma non quello lì, che magari ci sia qualche massa che non sta facendo massa come si deve, capite? Crea un piccolo differente di potenziale e te lo fa scattare, non lo so. Vabbè, riprendi e fai girare, dimmi se sono sempre uguale a poco fa. Come c'è di più basso adesso? Può essere, vabbè. Allora, aspetta, scusa che anch'io oggi sono un po' di... Ora, ecco, ti mi sei aumentato un pochettino così. Scappa, va bene. Perché stavo facendo due stupi anche poco fa, dai. Va bene, dai, riprendi Massimiliano. Ehi. Dai, Gianni. Sì, quando è così fa piacere che ti sia risolto tutto. O magari c'avevi qualche cavo che non toccava bene, come stava dicendo Fabrizio. E poi è un tipo di alimentatore, anzi, è abbastanza buono, anche perché la marca non è scarsa di certo, è una buona marca. appunto quando succede così devi sganciare il carico in modo che lui riesca di nuovo a riazzerarsi, se no ormai sempre protezione rimane, anche se lo spegni, a meno che non gli stacchi la spina. L'altro discorso che succede anche negli alimentatori di PC, quando vanno in protezione, se non lo sganci dalla 220 anche se è spento, o sganci il capo di alimentazione alla sera madre, rimangono in protezione. Ciao. E adesso ho acceso tutto, adesso sì che sono io. Tutte le lucette blu accese, del notturno, tutto quanto come voglio io, va. Che ho fatto l'antenna all'uncinetto, adesso ce l'ho stesa nello stendino fuori dal balcone, l'ho anche bagnato così, conduce un po' di più. Massimiliano, un po' tranquillo, perché il pomeriggio non ho riposato, niente. Io ho preso sonno reale, luna, e poi il tuo segnale è salito di brutto, 9 più 40, sì. Cioè 9.30, 5 picchi di 40. Uguale, anche tu arrivi così. Allora ho fatto bene l'uncinetto stanotte. Poi dopo vado e lo bagno un altro po', perché quando ho notato che si asciuga un po' non gli varia bene. Sì, no, e buttagli un po' di aceto magari. Vai bene Massimiliano, perfetto, c'è una sua piccola immunizzazione micidiale, va bene. Ok, dai, riprendi la Salvatore, togli le dita dalla tastiera, stai sempre sbattendoti le dita sulla tastiera. Ciao anche a Gianni, scusa Salvatore, ciao anche a te, ciao a Fabrizio, Claudio, non so, boh, sì, Salvatore. Ciao Lu. Mi sto intrippando in una cosa, Massimiliano, voglio provare a accidenti, a riuscire a farla questa benedetta installazione. Adesso faccio qualche altro tentativo e poi lascio perdere. Sì, poi hai capito come fare la compilazione? Sì, sull'OS. Io ma ci mi sto sbattendo su quello. Allora, infatti mi sono già installato VMware, perché chiedono quello lì. Io ho fatto già il classico Hello World, Luca, il classico Button e così via. Nella Luca, diciamo la schermata come se fosse l'iPhone, con dentro quello che ti ho realizzato. Però adesso praticamente lo devo esportare sul Mac, però da quello che ho capito ci sono vari sistemi. Uno di questi qua è quello farlo via rete in automatico. E stavo vedendo come farlo. O altrimenti lo compilo, c'è un eseguibile che ti permette di compilarlo per esportarlo per l'Xcode e poi ce lo puoi esportare manualmente, glielo copio così, lo riapro con Xcode, lo ricompilo con quello e poi dovrebbe andare. Hai installato nella macchina nel sistema, nell'OS, tu hai installato quel software che è di ausilio alla compilazione, perché tu devi chiamare dall'embarcadero, devi fare la chiamata via rete alla macchina OS dove deve girare quel programma. Io l'ho già installato, però c'è quello che mi manca è la comunicazione tra il PC e il Mac, proprio per fare quella chiamata. Sul Mac gliel'ho già installato quel software ausiliario, però mi manca questa comunicazione. Però stavo leggendo che si può anche esportare a mano, cioè glielo do lì e poi da lì poi glielo faccio ricaricare. No, quello non l'ho letto. Mi sembra che ci sia anche un discorso di porte, o sbaglio? Sì, è completo, però ho letto, perché c'è la pagina di aiuto, dove ti dice che ti devi installare VMware, il player e un altro componente sempre di VMware. per fare questo lavoro qua, però non ho capito il motivo, perché quello cioè, per virtualizzare la macchina, a meno che non richiami la macchina, e te la faccio vedere sotto Windows, la macchina Mac host, capito? Il gioco che fanno, perché ho visto un filmato su YouTube e praticamente scorreva lo stesso schermo sia il Mac che il Windows, e la macchina era Windows, forse con VMware e quell'altro add-on riesce a portare diciamo la visione del Mac sotto Windows. Mm-hmm. Ho capito, no, io sto provando non con VMware ma con il coso, con il VirtualBox, perché la procedura che ho trovato descrive l'immagine di facciata di Hazard per il VirtualBox, però c'è un però che le istruzioni sono fatte per un eventuale portatile con processore AMD, quindi ci sono tutte quante le varie opzioni che bisogna provare per i processori Intel, e solo che fare ogni volta una prova ti porta via in pratica 40 minuti il tempo dell'installazione completa, e mi sta facendo perdere un sacco di tempo, quindi ma ci riusciremo, siamo fiduciosi. Dai, riprendi tu e fai girare, che gli altri li stanno già spallando. Yeah. Ma guarda che per il processore Intel devi usare l'IDNM, io sempre usato l'IDNM per processore Intel, è sempre funzionato bene, addirittura l'ho installato proprio su un portatile della Asus, e c'avevo il Mac diciamo nativo sull'Asus. Dai, riprendi Fabrizio. Riprendo io. Fabrizio si è spostato sul nostro canale, sul 21. Fabrizio, Claudio e Luca. Vabbè, dai, visto che ho il microfono e approfitto per salutarvi, dai, vi ascolto in cuffia. Ci sentiamo. Ciao Salvatore, Gianni e Massimiliano. Siete rimasti, cioè siamo rimasti solo noi in questa ruota. Gli altri sono sul 21, stanno facendo delle prove o qualcosa del genere. Vabbè, faccio girare. Avanti Gianni, per me è QVT. Buonanotte a tutti comunque. Avanti Gianni. Allora. Giulio, ti auguro un buon corretti, dai, un buon continuo serata. Comunque tutto a posto, adesso ci ho portato via tutto anche il mobile, quello vecchio, via, me ne sono sbarazzato già, l'ho portato in cantina. E adesso ci abbiamo tutto a posto, adesso sono contento che si è ripreso questo alimentatore, perché se no ero un po' in paranoia, dico la verità. Gianni, scusate un attimo, ma si vediamo il Salvatore. Gianni, aumenta la forza, allora cappuccino e passa adesso, ciao, ci sentiamo, me lo dici, riprendi a vaginare, buonanotte a tutti. Non c'è nessun problema, già lo sai, andare, quando ti trovo cappuccino e pasta, promesso. Ciao, ci sentiamo, giù, buonasera. Quanti Fabrizio? Riprendo io, ciao Giulio, buonanotte, buon QRT e alle prossime, dai, che ha un paio di giorni che non ti sentivo. Ok, no, con Luca sul 21, che per non rompere le scatole qua, che stavo, che lui conosce bene la mia radio, quindi stavo un attimino vedendo un attimo regolare e fare tutto, capito? Ok, adesso credo che ci sono, dovrebbe essere tornato più o meno come prima. Riprendi Gianni e se mi confermi quello che sto dicendo e fai girare, e così riesco a capire chi siamo rimasti in ruota. Adesso sei bello come di prima. Cappagatta, dai, che va bene. Devi uscire adesso, dai, ti ha regalato bene. Cappa, qui c'è Salvatore, c'è sempre, come si chiama, Archimede, e via dicendo. Non so se ci sia ancora Claudio, ma ho sentito che è entrato poco fa, ha fatto una battuta e poi non è più rientrato. Claudio, ci sì. Attimo, non lo rispondere. Vabbè, riprendi tu Archimede pitagorico. E via. E via. E niente, Sabato, perché ti stavo dicendo, devi provare anche quell'altra versione, che secondo me dovrebbe andare meglio. Comunque in giro ci sono il file VDH o VHD, come cavolo si chiamano, tra le immagini già pronti di VirtualBox. Però non vanno bene, ne ho provato già due e non è andato bene. Adesso sto provando l'ennesima configurazione e tutto sta a riuscire a imbroccare il setup che riesce a conciliarsi con questo. Tra l'altro sto lavorando anche con, siccome non ho molta RAM totale, purtroppo non sto neanche dedicando quella che richiederebbe l'intera installazione. Però siccome comunque sembra che giri, tant'è, utilizziamo questa, quella che gli posso dare. Vabbè, è un tentativo, male che vada lo trovo un altro PC sul quale installarla, che mi dà più memoria a disposizione, e provo un altro setup. Ce l'ho un altro, uno con l'AMD montato sopra, e posso sempre, male che vada, provare l'intera installazione su quell'altro. Era giusto per avere tutto su una macchina, perché mamma mia, a furia di avere le cose sparpagliate poi si perdono un po' di vista sia i progetti che i programmi installati, quindi stavo un po' scocciando di questa cosa, sto cercando di fare prove solo da una parte e le installazioni pulite e funzionanti metterle da un'altra. Comunque io comunque tiro questa sera dell'uncinetto. Era modo di dire, perché fino a ieri c'avevo l'antenna di plastica, adesso c'ho le antenne fatte a uncinetto, no? Ma vabbè, ho messo l'antenna sul tetto, tutto qua. Voilà, la Ringo, l'antenna per la 27, mezz'onda, c'avevo la vecchia casa, adesso l'ho rimontata su nel tetto, per quello arrivo forte e sento forte qua. Perché mi sono pigliato male ieri, sentivo la maggior parte dei segnali bassi e ugualmente anch'io mi sentivano bassi, perciò stamane sono riuscito a ricavarmi un paio d'ore e fare questo lavoro. Paga, per fatto bene. Già va bene, adesso per il momento già ti sentiamo di uscio. Sì, bisogna fare quattro chiacchiere, per carità, già va bene così. Già va bene così. E niente, Sabato, per quel discorso adesso mi sto sbattendo per far girare il sistema, per fare la compilazione per iOS. Prima di riuscirci, vabbè, oggi me la sono dedicata con le antenne, poi vediamo domani di dargli una mano e vedere un po' di farlo girare. È giusto per curiosità, per vedere se va, anche perché io sto studiando il linguaggio di programmazione dell'Xcode, ho preso anche una sorta di piccola enciclopedia in italiano, ma è un dramma. Invece così, se riesco a ritornare con l'embarcadero, va di lusso. E mollo anche il video studio, perché sinceramente per fare delle cose semplici bisogna scrivere 3000 linee di codice e la cosa non è che mi soddisfi più di tanto, visto che il tempo è quello che è. Riprendi, Fabri. Riprendo io, no, la verità è che sono un attimino distratto sul discorso, perché ho la televisione accesa e stavo guardando un pezzo delle Iene e mi sono leggermente distratto, sentivo che stavi chiacchierando tu e quindi ho perso il filo del discorso e chiedo scusa. Riprendi, Salvatore. Sì, Massimiliano, il discorso infatti è quello, cioè se uno ha un certo know-how, è un peccato, sarebbe un peccato disperderlo avventurandosi in altri sistemi. È ovvio che uno fa di necessità virtù. Se tu sei costretto a sviluppare un qualche cosa e il sistema più veloce e più, diciamo, sicuro tra virgolette è quello comunque attraverso un altro sistema di sviluppo, ci si attrezza così come è fatto e si va. È ovvio che le abitudini sono dure a morire, per cui quando uno ha acquisito una certa dimestichezza nel creare dei progetti con un certo flusso, è difficile abituarsi a un altro modo di operare, con casomai lunghezze diverse, con costruzioni di routine un po' diverse, che sono tanti un po' messi assieme che alla fine però fanno una cosa completamente diversa. Tu pensa che io stavo studiando adesso un po' di C, perché purtroppo stavo trovando difficoltà nel riuscire a fare il passaggio dei progetti sviluppati con Delphi per poterli far girare su un ambiente Linux. Allora qual è la strada più lunga, e sarebbe anche quella meno indolore, però più lunga? Quella di fare un prodotto in C con il C Builder e poi, avendo i sorgenti in C, utilizzare i compilatori GNU o quello che hai nell'ambiente Linux per far migrare il tutto. Però una bella rottura di scatole, perché sono cose lunghissime, sono approcci di programmazione completamente diversi, ci sono tipizzazioni di variabili che sono diverse e quindi è tutta un'altra roba. Questa cosa qua perché mi stava pizzando? Perché mi è capitato anche nel recente passato di sviluppare un software per ad esempio uno studio legale dove ad esempio proprio lui, il titolare, ha un Mac e nella rete poi hanno gli altri software Windows. Allora l'ideale che cosa sarebbe, visto che è un appassionato di questo accidenti di sistema, riuscire a fargli l'identico applicativo che accede all'identica banca dati, dove uno lo utilizza compilato in Mac e gli altri lo utilizzano in ambiente Windows. Sarebbe una figata riuscire a portare avanti un discorso del genere. Vabbè, quello sì. Ma come cosa, database cosa stai usando? Io mi sono fatto quest'estate il SQL Server licenziato, è l'ultimo. No, niente SQL Server, MySQL. MySQL perché alla fine tu hai un parco di installazioni, con soprattutto quando vedi nei siti che utilizzano i Joomla ad esempio, va alla grande MySQL, è la roba gratuita in questo periodo, poi chissà perché, ma tira parecchio e quindi preferisco andare su MySQL. Ci sono un sacco di utility eccetera eccetera, e non ti devi spaccare con le mille versioni, le mille release che poi devi abbinare necessariamente al sistema operativo host. Tu sai benissimo poi che le librerie Microsoft non sono mai leggere, e spesso e volentieri ti trovi a dover casomai cambiare anche i sistemi operativi per poterli adeguare alle relays di aggiornamento di SQL Server, che non è leggero. Che cos'è? Usando Visual Studio, perché all'inizio stavo usando MySQL, il problema è che con Visual Studio è compatibile, però dà un sacco di problemi perché non è Microsoft. Poi ho trovato SQL Server, la versione diciamo più completa, a 67 euro, perché è dedicata per gli sviluppatori. Io siccome ho lì l'accesso alla CDC all'ingrosso, e niente, l'ho acquistata lì, ma per quel prezzo lì l'ho dovuta prendere. Però se adesso riesco a ripassare di nuovo con Delphi, ritorno con MySQL e quella però lo voglio abbandonare, perché io col NAS ce l'ho attivo il MySQL, capito? Se riesco rimigro da dove ho iniziato, che mi trovo molto meglio, e poi conosco già il linguaggio e riesco a lavorare senza nessun problema, perché con Visual Studio, con il C Sharp è bello, è completo, è tutto quello che vuoi, ma è un poi quando hai la mentalità, il modo di pensare con un linguaggio di programmazione, migliorare con un altro è un dramma. E infatti, è così. Sì, poi MySQL te lo trovi, oltre che in asse, in quelli della QNAP, te lo ritrovi un pochettino in tutti quelli che hanno il supporto multimediale. Perché? Perché comunque è performante ed è prestazionale. Oltre a questo, tu considera il pacco installazioni fatto con Joomla, no? Il sistema di gestione e di creazione di un dei siti web. E Joomla ha un parco di installazione di migliaia di siti e si utilizza il PHP e il MySQL. Ora, tu hai un prodotto di Embarcadero che ti dà il C-Builder e il Delphi, oltre al il RAD PHP, la versione sempre X2 che è uscita e che trovi anche quella. Dopo niente, perché ce l'ho in ufficio il link. Con questi tre strumenti tu hai la possibilità quindi di sviluppare con quella metodologia che hai acquisito e che hai ulteriormente sviluppato, puoi permetterti di spaziare dall'ambiente web all'ambiente di creazione e di dialogo con apparecchiature elettroniche, come hai ben visto, che è abbastanza oramai per te è stato molto molto molto proficuo in termini di sviluppo, perché hai acquisito tutte quante quelle tecniche che il prodotto ti permetteva di poter mettere in atto, e sarebbe veramente un peccato, perché a questo punto se tu ti ritrovi nuovamente con quella sfera di applicazioni che ti soddisfano a 360 gradi, a mio avviso varrebbe la pena riprendere in mano il discorso. Dopodiché l'ambiente di Visual Studio è una dannazione. Quella è una dannazione. Spingono perché l'utente si agganci mani e piedi a questi accidenti di software house che è la Microsoft. Sganciarsi è un po' complicato. Lo so, ma d'altronde poi c'è il problema del cambio di sistema operativo con Vista in su. Delphi 7 non era più possibile utilizzarlo, era un problema, era. Bravo, perché poi col discorso del .NET in poi facciamo girare, perché sennò gli altri va a finire che si mettono a fare anche loro l'uncinetto. Chi c'è rimasto? Gianni, ci sei sempre. Fatta, Massimiliano, ti sento su 12, mi sta entrando come se fossi su 10. Non si sente di spazio, sente tutto normale. E siamo estremamente vicini. Vabbè, ho abbassato la potenza, ma siamo talmente vicini che che mi senti anche lì sicuramente. Chi te lo informa? Sono anche Fabrizio. Sì, no, io vi stavo ascoltando e anche guardando la televisione, perché stavo guardando quello delle Iene sui contratti luce e gas e come li vendevano in una maniera incredibile, come fregano la gente. E poi ho sentito un discorso di collega che io non vi ho seguito, quindi sto intralciando solamente, dai, avanti. Allora, eccetera, dobbiamo parlare con tutti, stiamo parlando di programmazione con Salvatore. Vabbè, prendi un minuto Gianni, provo a fare conto fino a 10, provo a vedere se ti sento su altri canali. Appagato, stavo per addormentarmi. Ohia. No, vabbè, dai, mi sono spostato 5 minuti. Ho provato su 12 per vedere se c'è la gente che di sotto ce l'ha detto a comporre. C'è questa Massimiliano Cano, perfetto, perfetto, tutto come se fosse su 10, allucinante. Sì, ti sento fino al canale 15. Tutto limpido. Sì, si capisce quello che dici. Vabbè, ma che siamo vicini, siamo, ma è normale, guarda. Non c'è da meravigliarsi. Vabbè, io l'ho più messo in scappa perché quella di fronte che abita con il palazzo di Vittorio mi ha dato un bel di mantana perché ci disturba perché di fuggire dentro con il telefono. Poi c'è il 14 o il 44? 14, ma bello, però lì c'era ancora Claudio. C'era ancora Claudio. Ho dovuto riprendere perché mi ha messo articolo sul giornale, ha messo i bigliettini nel coso sotto il portone, chiedendo aiuto a fare un comitato contro di me per farmi chiudere l'antenna. Gente malata già ce n'è in giro. E cosa devo dire io? Mi ricordo quando avevo montato le antenne in laboratorio, ma solo montato le antenne, apparati non l'avevo ancora messo. È venuto questo vecchietto dicendo che per colpa mia non stava avendo più la televisione. E so, ma lei dove abita? Lo vede questo palazzo? Dietro altri due palazzi. E io gli ho detto, e io a lei gli disturbo la televisione, ma mi scusi un attimo, se fosse stato che disturbassi a lei la televisione dovrei disturbare un po' a tutti. E poi gli ho detto, come faccio a disturbare la televisione se ci sono solamente le antenne e apparati non ne ho? Quando ho detto è un laboratorio, le uso sempre per fare delle espansioni, ma in questo periodo non le usate. No, lei da quando ha messo queste antenne sta tirando tutta la. La ricezione me la sta portando via a me. C'è la gente fantastica. E tu Salvatore, problemi hai avuto quando hai messo l'antenna? No, io sono molto più spiccio. L'ho messa con una giustificazione molto più semplice, tra l'altro, che i parapetti esterni stavano crollando con le antenne della TV normale e quindi gli ho detto a tutti quanti iniziatevi ad armarvi per smontare tutte le antenne TV perché stanno crollando i parapetti esterni in testa alla gente e fate come me, nel caso vi do una mano d'aiuto. Quando tu dici che se dai una mano d'aiuto al prossimo sei una botte di ferro, poi tanto non verranno a cercarti, ma comunque non ho avuto problemi assolutamente. Non ho avuto problemi. E poi quando sei sempre disponibile a dare una mano d'aiuto agli altri è difficile che ti vengano a rompere le scatole. No, ho tirato su l'antenna, ho messo tre tiranti, ho messo tre cavetti d'acciaio, mi hanno cacciato perché ho messo i tre cavetti d'acciaio subito qui sul canale perché dovevo mettere anche giusto quelli almeno nautici, dai, per intenderci. È una cosa che farò nei prossimi anni, la farò. Vabbè, materiale conduttivo su te, non se ne usa su elementi irradianti. No, io per non sbagliare stamattina ho cambiato l'antenna della televisione, la VLHF, anche perché erano due pezzi di ferro arrugginiti e avevo difficoltà a vedere i canali HD. Ogni volta che cambiavo sul canale HD ci dovevo aspettare mezz'ora prima che agganciasse il segnale. E poi sicuramente con un'antenna così avrebbe dato problemi, allora le ho cambiate direttamente e poi ho un po' piazzato in punta al palo l'antenna, la Ringo. Poi se più in là mi installo anche tutte le altre, quelle radioamatoriali, così inizio a fare un po' di attività. Vediamo un po' come cosa ne esce. Chi c'è rimasto? C'era mi pare ancora Fabrizio, gli altri ancora ci sono. Fabrizio riprendi, poi non so se gli altri sono ritornati o se sono ancora a spasso per i canali. C'era, allora siete dimenticati. Luca ci sei? Si era spostato sul 21. No, si era spostato con me sul 21. E lì vabbè, non siete dimenticati, magari sta facendo altro al computer. Solitamente lui gioca a poker a questo. Avanti Fabrizio. Allora, tutto ok, L'ho provato a spegnere, l'ho riacceso, riaccende tranquillamente. È andato in protezione, quindi è quello che ti hanno detto. Provalo e vedi un attimino se continua ad andare in protezione oppure. E continua ad andare, prova, può essere che veramente c'è qualche cosuccia tu lì che ogni tanto te lo manda in protezione, ha detto magari questo è più sensibile di altri e quindi te lo fa. E anche a me una volta è capitata una cosa del genere, appena arrivato qui avevo piazzato un'antenna per un discone per l'ascolto, ma non avevo nessun apparecchio, giusto per fare un po' di radioascolto. La prima cosa che hanno fatto quando è venuto il tecnico, ma quella è colpa degli antennisti che non capiscono niente, la prima cosa che gli ho detto alla signora è quello lì che la sta disturbando, questo qua. Quando mi hanno detto mi sono talmente incazzato che sono andato in laboratorio e ho detto mi scusi, ma lei cosa fa l'antennista? Detto, io sono il proprietario di quell'antenna, sa che cos'è quella? No, quello è un'antenna di guarda che lei non ha capito niente, quello è un'antenna di ascolto, è un discone di ascolto, ma lì sa come funziona. E allora non si permetta più di mica me l'ha incazzato una bestia. La gente parla senza collegare dai bimbi, tanto per mettere fuoco. Così la storia di quella del palazzo di fronte, prima avevamo mandato i controlli a un'altra persona, non so se ci aveva le radio. E si è cercata Varietta perché ne hanno controllato prima l'antenna TV e ne hanno trovato l'amplificatore, hanno fatto un verbale più grande di lì, si è dovuto pagare la chiamata e in più il verbale. Che amplificatore? Amplificatore d'antenna, cioè del televisore. E perché non commentare? No, allora, lei che parla, che qualsiasi apparato che sia in trasmissione o ricezione deve essere antenna, cavo e apparato, non ci deve essere in mezzo niente se non strumenti di controllo. Gli amplificatori che tutti quanti li mettono, fanno una certificazione e balle varie, non sono ammessi. Non so che non lo sapevo, quindi voglio dire, in ogni condominio dove c'è l'amplificatore di antenna che serve a fare tutto quello che sappiamo, quindi non sono diciamo legali. Esatto, se trovi quello che gli girano le balle quando vengono a fare il controllo, ti può mettere la multa, così come ti possono controllare i cordless che devono essere omologati dall'ente ex poste telecomunicazioni e altre cose, perché molti sono convinti che siccome lo prendono lo possono usare, e invece non è così. Quindi dici che c'è un impianto d'antenna, non è la prima cosa che sente, eppure l'ho fatto, quindi in un impianto d'antenna non si può mettere l'amplificatore. No. Scusami un attimo, lo dice per baracchino. Se ti vai a leggere gli articoli, tra altre cose c'è scritto che l'impianto deve essere composto dall'antenna omologata, dal cavo d'antenna e dall'apparato omologato, che non ci devono essere più di 4 watt in antenna, ok? L'unica cosa che si può mettere tra l'apparato e l'antenna è lo svatmetro. Il microfono deve essere originale e non puoi mettere il microfono con l'eco e altre balle varie. Così per l'impianto d'antenna televisivo non, il discorso non cambia, è la stessa cosa. Antenna, cavo, TV, non ci deve essere altro. Non so, sì, il palattino sì, ma dell'antenna cacchio proprio non lo sapevo, cioè, ero convintissimo, c'era un'amplifica perché poi tutti quanti sono amplificati per mille motivi, proprio non lo sapevo, non la sapessi anche perché la prima volta che qualcuno rompe le scatole uno dice va bene, chiama pure, come chiama gli fai mettere la multa, non lo sapevo. Devi trovare il colui che è, guarda, se ti fai un giro in rete, tanto ci sono tutti gli articoli e te lo cerchi. E con la legge in mano, l'articolo in mano, puoi alzare la voce, proprio, e nessuno ti può dire niente. C'è poco, ancora lo posso trovare, però c'è poco da sapere lei, se è così, si fa andare del controllo, gli fai sì, ma io sto disturbando per quale motivo? Un esempio, sto disturbando perché? Per questo motivo, a me mi sa che sto disturbando perché questo signore c'ha l'amplificatore d'antenna, e perché no, guardi, ok, sta facendo i controlli e non lo sa, me fa verbale, perché verbalizzi, io sono in faccia a quello che verbalizzi, che io me fa verbale questa cosa, e qui c'è un amplificatore che non può rimanere, poi tipo non ti preoccupare che se non è preparato si informa. No, già sono tutti preparati qua, non ti preoccupare. No, se tu sei in ordine, a posto, e rispetti i parametri imposti, poi vanno a cercare quell'altro e si attaccano, solitamente si attaccano all'amplificatore d'antenna, o se no all'impianto d'antenna vetusto. Anche quello, io da poco, mi è capitata una cosa strana da poco, ho montato un'antenna a fianco alla mia, con quella era troppo vicina all'antenna, la verità, una multibanda, e con quella comunque andavo io ci sono sul nostro impianto due caratteri, uno che va all'interno e l'altro che passano fuori, comunque dei cavi che fanno le cucine e qualche cos'altro, quindi diciamo due parti del palazzo sono diverse dalle calate, c'è la calata principale e l'altra calata che fa 4-5 apparecchi, di cui nel mio, infatti nell'altro quando iniziavo a dare più di 50 watt mi faceva mancare il segnale del digitale terrestre, mentre in soggiorno niente, quindi ho detto è la calata che stiamo mandando a queste 4-5 televisioni che abbiamo dall'altra parte. Mentre con l'altra antenna non lo faceva, però ho notato commentando un po' che lo faceva anche con la 5 ottavi, però cosa è successo praticamente, come ho messo l'antenna vicino all'antenna TV e l'altra antenna era tra l'antenna TV e la 5 ottavi, succedeva praticamente che irradiava anche quando non entrava in funzione, praticamente faceva irraggiamento, come si dice, c'è il termine tecnico, no? Tipo, non tipo fantasma, tipo dimmelo tu il termine che mi sfugge, quando vabbè, mi sfugge adesso, e quindi succedeva questo, allora l'ho fatto, ho spostato le antenne, già smontando la multibanda non mi creava più problemi nemmeno la 50, quindi le ho spostate e siamo tornati tutto a posto. Comunque in ogni caso io, per non sbagliare, li ho sostituito senza dirgli niente tutti i cavi di calata, perché erano tutti scorticati, quindi chissà quanto è tutto il resto, chissà cosa cavo li portava dentro, per non sbagliare glieli ho cambiati, quindi sicuramente era colpa mia che avevo le antenne vicino, ma sicuramente anche quei cavi così tutti spellacchiati non credo che era il massimo per l'impianto. Vabbè, per forza, sì, ma anche qua ho visto quando stavo cambiando stamattina le antenne, c'era uno spezzone che va all'amplificatore dell'antenna, era tutto quanto rovinato, e figurati. Un attimo di sembrare per me che vado a caricare i bambini, torno subito. Io ho fatto cambiare l'antenna al condominio, lo sai. Perché hai fatto bene. Ma praticamente vabbè, tutto il casino per piazzare l'antenna, ho dovuto raccogliere le firme di tutti i condomini, portare una riunione, fatto sta che ho portato la legge che ho scaricato da internet, abbiamo fatto vedere a tutti e tutti sono stati d'accordo che io la mettessi, con un asterisco sempre ammesso che non rechi disturbo. Poi avevo già messo sopra che mi prendevo tutta la responsabilità se recavo disturbo di provvedere a sistemare le cose. Fatto sta che dopo che ho piantato l'antenna cominciano a bussarmi la porta, che stavo disturbando il televisore, che avevano fatto male a farmela piazzare, questo e quell'altro. E hanno fatto la lettera al condominio, il condominio a sua volta mi ha fatto la lettera a me e io gli ho risposto dicendo che l'impianto era stato fatto correttamente, che non pensavo di essere, pensavo proprio di non essere io a disturbare, che magari c'era qualche altra cosa che non andava. Allora mi hanno nominato un tecnico, è venuto a ispezionarmi gli apparati, è venuto in casa, io l'ho fatto entrare tranquillamente, hanno visto che uscivo con 5 watt, con 4 watt e mezzo esattamente, e mi ha detto non è possibile che sia il baracchino, i watt sono 4 watt e mezzo, cosa può disturbare? È salito su come ha toccato l'antenna a Fradega, l'ha toccata e ne è sceso un pezzo. Adesso faccio il verbale, io lo scrivo, ha scritto nel verbale che la coppa non era assolutamente la mia e che l'antenna voleva sostituita, eccetera eccetera. Una volta sostituita l'antenna non ha più dato fastidio a nessuno. È normale, no? Batto un cavo ossidato, una volta un cavo leggermente ossidato per portarti dentro tanta di quella mondetta che nemmeno ti immagini. Diciamo così ci andiamo meglio, perché col digitale terrestre è difficile che disturbi, se non quando schiacci, come succedeva a me, irradiavo una, irradiava l'altra per lui, vabbè, già adesso poi mi verrà la parola, comunque un po' come fanno. E quindi succedeva questo praticamente, che da una parte gli facevo mancare il segnale, cioè non mancare il segnale, all'antenna sicuramente, al cavo, perché erano spellate, gli arrivava sicuramente il segnale del digitale, più il mio segnale, quindi ovviamente gli incasinava tutto, quello chissà che segnale in digitale, che segnale riceveva e non decodificava, capito? E cosa succedeva? Ascolta Gianni, io mi adesso ne approfitto per salutarvi, che devo andare a trabacco, al limite accendo la macchina. Niente, nel passaggio dei saluti, se mi date un ultimo controllino di radio, se mi dite come sto uscendo, in confronto agli altri giorni, se è rimasto invariato dopo tutte queste ultime regolazioni che ho fatto stasera. Avanti Gianni. Io per me la radio è buonissima, come al solito, come la prima, tranquilla e non ha niente da dire. È una radio bella forte, potente, presente, che cavolo ti posso dire Fabri? Basta la luce che va bene. Ci sentiamo dalla macchina, andiamo un trabacco e ci sentiamo dalla Batmobile. Ok, adesso me ne scendo giù e accendo la Batmobile. Batmobile. Chi è che ti è rimasto? C'era Salvatore, avanti Salvatore. Via, Zappa, dai, ti teniamo compagnia fino a che non raggiungi il luogo. Cos'è la zona Porto Torre, sono giù di lì? Zona Fiumessanta, sperando di essere tutto tranquillo, che non ci abbiamo nessuno negli impianti in circolazione stanotte, che non tocca seguire nessun lavoro, che non ne ho proprio voglia, né sicurezze né niente, che vada tutto bene e che se ne rimangono a casa, che non siamo costretti a chiamare nessuno stanotte, dai, per farci qualche trabagliuccio. Ascolta Salvatore, ci sentiamo dopo, anche tu comunque come radio invariata, sì? Sì. No, mi sembra che vada bene, Fabri. Forse ora che ha scaldato un pochettino va meglio, tutto sommato, stavo pensando anche a questo. No, io quando mi sono spostato poco fa, che sono sparito, stavo facendo altri due ritocchi, e quindi ho abbassato un po' alcune cose, ho fatto un paio di ritocchini, di allineamentini con... così, e quindi volevo vedere un attimino, va bene, allora lasciamo così e va bene, ok, e 1, 2, siamo in 3, adesso vediamo se c'è qualcuno altro e così poi io me ne vado. rieccomi. Ok, ciao Massimiliano, ci sentiamo dalla macchina al limite. Ah, va bene, ok, d'accordo. Così vediamo più un po' di più. No, io credo tu arrivi sempre bello bello, e poi c'è, credo che anche Salvatore comunque, e poi anche Massimiliano, l'ho sentita assassino, mi sembra che arriva bello forte. Dai, vediamo un pochettino se la cosa va bene, dai. Ok, dai, io vi saluto, e faccio una chiamata. Claudio, ci sei? Sentiamo Claudio. Volevo chiedere un controllo anche a Claudio, che poco fa non gli piaceva, volevo fargliela sentire così se gli andava. Oh, vabbè, ci sentiamo dalla macchina. Vai pure, vai, io rimango qui, amici miei sono tutti qua. Avanti Massimiliano. Mamma mia, sono cotto. Sono cotto. Adesso vediamo un pochettino con Fabrizio a vedere sin dove arrivo. Se ho capito dove deve andare, dovrebbe. Mi è mancata la modulazione. Poi vediamo un po' dove va. Va bene. Luca non ha ripreso. Ragazzi, pure Luca a quest'ora ha un computer. No, io l'ho mollato, mi ho letto un po' di mail che mi hanno scritto, quindi non ho fatto altro stasera. Il computer ogni tanto bisogna cambiare, come si è fatto fare il mobiletto, caspita, c'è anche il piano come quello per il computer, ti difuri, ti fa la scrivania e ci puoi appoggiare anche il computer e scrivere al computer, di lusso. Vabbè, tu hai visto il mobiletto che ho fatto io invece, Gianni? Ma negativo. Non ci siamo andati sul mio sito. No, Massimiliano. Ah sì, sono andato per vedere quegli apparecchi, sì, è vero, me l'avevi detto tu di andare, sì che sono andata. Vabbè, quel mobile l'ho costruito io. Ma io non me lo ricordo questo mobile, mi ricordo degli apparecchi che vi comprate e mi avete fatto vedere. E questo mobile non ce l'ho presente, vabbè, poi magari ci andrò. Se mi ricordo come devo entrare, qualche nominativo. Se c'hai un pezzo di calamaro e una cartina, te lo scrivi. Come no, aspetta, ti ho detto che c'è il ripiano estraibile. E dico, il ripiano mi sono messo una sorta di blocotes con la penna pronta per scrivere. Vabbè, quello è comodo. Dimmi quando sei pronto e te lo dico. Devi dotare di una segretaria, ho già. Allora, www.is0gup.com. Faccio lo spelling. Italia, Sardegna 0, Guatemala, Università Palermo. Italia, Sierra, Oscar, Guatemala, Uniforme, Papa, com, così. Invece TH 0, I Italia, Sardegna 0, non è la O, è lo 0, IS0, GUP.com. Adesso scrive 0 Gianni. Devo scrivere 0, non la O. Devo scrivere 0, IS0 significa Sardegna. Bravo, ecco, 0 come numero. Invece Salvatore ti stava dicendo che stavi scrivendo 0 a lettere. No, hai capito. Non so da che si punto. Allora metti l'indirizzo, ti porta in una pagina dove ci sono i simboli, e poi sotto c'è scritto entra. E poi c'è il mio nominativo che dondolo, puoi cliccare anche lì. Ti porta una pagina e vai in, se non mi ricordo, aspetta, te lo dico al volo, qual è che era. Allora, aspetta un attimino, così, s0gp.com, allora, sì, c'è, vabbè, c'è il mio nominativo che dondola, puoi cliccare anche lì e devi andare in MyStation. E lì ci sono tutte le foto e vedi anche il mobile che ho realizzato. No, questo collega. Eia. Perché la fai computer, cioè io non guai. Se ne innamori, se ne innamori. Eia. Beh, Sabato, il mixer l'hai visto, ti va bene quel mixer che c'è al centro? Ma quello è quello che avevi da un bel po' di tempo. No, questo qua è un altro, questo qua è molto più recente. Questo qua è un 24 canali, Ma che ci fai? Allora, tutte le uscite audio degli apparati vanno a finire dentro al mixer. Poi posso decidere o di amplificarlo con gli amplificatori esterni, o di metterci le cuffie e ascoltare o tutto assieme, o un apparato, o più apparati, insomma, a seconda della situazione. Ma ci credo che ti serve una portaerei per metterci tutto. E poi invece, per trasmettere in HF, non so se si è notato, c'è un microfono da studio su un braccio. Praticamente quel microfono va in quella sezione centrale dove ci sono i vari dispositivi audio, preamplificatore valvolare, poi ci sono i processori audio e così via. Poi c'ho un mixer al contrario che serve un power play, dove entra il segnale e lo sdoppia in quattro segnali e ogni canale va per ogni all'ingresso microfonico di ogni radio HF. A seconda di quello che devo usare lo attivo e uso sempre il solito microfono per le varie radio e poi a seconda delle frequenze o della modalità di emissione o i vari setup audio. Poi infatti ho immaginato che poi comunque tutta la maratona dovesse servire per snellirti l'eventuale passaggio di stacco e attacco che avresti dovuto fare se no in alternativa è manuale. Sì, anche perché quando si va in HF in 40 metri o in 80 metri, diciamo che molti usano i sistemi audio proprio per avere la voce bella calda e profonda, quelle tipo broadcasting. Mm-hmm. Ho capito. Infatti quello è un proprio microfono da studio, mi sembra. Sì, ho un cardioide da studio. Infatti mi capita quando fanno dei video musicali dove riprendono negli studio, mi capita di vederlo spesso e volentieri questo microfono. E niente. Però va. Per giocare e sperimentare già va bene. Beh, trovata l'hai Gianni questa pagina. Caccia il memorico. Visto, ha digitato male lo zero Gianni. Ha scritto zero con due R. Come Zorro. Poi ha scritto punto, proprio scritto punto, com. Cioè che c'era in sotto? Scritto come Zorro. Come Zorro io sono. Chi sei? Fabrizio. Fabrizio, tu sei? Zorro, come Zorro, zero come Zorro, zetta di Zorro. Dai, io sono in macchina adesso, sono a Via d'Italia, man mano ci vediamo un attimino di seguirmi e vediamo un attimino come chi arriva più forte, dai. Con quanto state uscendo voi? O Max, con quanto stai uscendo? Io sto uscendo con, aspetta che sto leggendo, con, quanto è, la scala di 200, 10 watt. Ecco qua, ok, sì, 10 watt. Il QRM è allucinante oggi, sento musichette, gente che parla, c'è un QRM... stazzano la propagazione. Sì, stavo notando le scorse settimane la rotazione della propagazione come stava avvenendo. Bestiale, perché al mattino, qua almeno dove sono io, ma insomma non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto a dove sei tu, fortissimo Ucraina, Turchia, eccetera, eccetera, mentre la sera la rotazione andava più verso la Spagna e Portogallo, eccetera, eccetera. Sì, guarda, il discorso della propagazione è ampio, è vasto. Qui qua, specialmente a Sassari, si crea un tipo di propagazione nord-sud per effetto del campo magnetico, e con anche mezzo watt molte volte si riesce a parlare in VHF 185 MHz con la Liguria, la Costa Azzurra, ma è un effetto, un fenomeno si può dire quasi giornaliero in VHF, mentre viceversa nelle decametriche. No, questo qua è un effetto solamente per i due metri. Immagino, mi sfugge proprio il nominativo di questo tipo di propagazione, insomma, non me lo ricordo. Per le decametriche c'è il discorso dello skip lungo, skip corto, del discorso del tra il giorno e la notte, proprio quando c'è il passaggio tra il giorno e la notte, c'è quella fascia che fa tipo sinusoidale sul planisfero, lì ugualmente c'è un effetto di propagazione, la ionizzazione dell'aria, è pieno, se è una materia a sé vastissima. Massimiliano, mi dice la Telecom, indirizzo www.isl0.com non è valido. Tutti li hai messi? www, non v come Vittorio, ma www come Walter, 3 volte www.is0gup.com. Così ho fatto. Hai fatto male, hai fatto. E HTTP ce l'hai scritto prima? No. E ma dovrebbe andare anche senza, Salvatore? Poi dipende da quale DNS si sta servendo lui. È quello della Telecom, casomai non glielo rigira almeno. Ma dovrebbe andare. Gianni, devi scrivere www.i come India, S come Savona, 0 come numero, G come Genova, U come Udine, P come Palermo, punto, C come Cagliari, O come Otranto, M come Milano. Ma pagava, ci sono dentro. Hai visto, avevi sbagliato tu qualche cosa. .com avrà messo .c0m. Ma io non so, a quel punto che non l'hanno mai votato, che un sito e so come gestarsi, no? Cioè le cose tecniche del computer, però per entrare te lo garantisco. Subito ha premuto la portante per chiarire. Sì, ce n'è poca qua di gente permalosa in questo canale. E che lo distruggiamo, eh. Oh, Salvato, io mi trovo adesso sul tetto della strada per Alghero. Ma bello forte. Qua se un bel 9-10 la radio è, si capisce, è super comprensibile. Allora, anche voi, mi dà l'impressione, insomma, man mano che vado, sto per rimettermi nella camionale, man mano che vado, sembra che abbiate tutte e tre più o meno lo stesso segnale. Avanti, Gianni. Cavolo, bello Massimiliano, complimenti. Ce l'hai fatto tu, anche complimenti, molto bello. Allora, quello che vedi sopra è il corpo di una cucina, quello che si usa per la cucina, è misura 3 metri. Poi sotto praticamente ho preso 3 scrivanie di computer e le ho unite assieme, diciamo, degli spessori. Per il rappello ho usato quegli affari blu che si usano per spostare i mobili, quelli pesanti, perché purtroppo per 4 volte ho dovuto smontare tutto perché le rotelle che usavo le sfondava. E poi tutte le rialzatine sono tutte ricavate, quelle grosse sempre da un pezzo di troppo, quello di sopra, quello di sotto ho proprio ricavato un piano ho acquistato così e gli ho fatti i piedi io, quelli si usano quelli per le cucine, e l'altro quelli di sinistra sono, facevano parte delle scrivanie che io ho adattato e ho messo lì per farmi dei piani sopra. Tutto scorrevole, i piani si aprono e si chiudono, compreso anche quello del mixer, e poi vanno a scomparsa e non si vede niente. Poi non so se nelle foto più avanti ci dovrebbero essere alcuni particolari, adesso non so se si vede, no, forse o nella prima. Forse nella prima foto si vede un po' di più, che poi sotto c'è il reparto alimentatore, poi vabbè, qua c'avevo due computer, adesso uno l'ho eliminato, poi c'è il reparto computer, poi al centro c'ho il cubo di continuità, vabbè, non si vede dalla sedia e altre cosettine, poi dopo dove c'è la sedia di sotto c'ho le stampanti e così via. Insomma, me lo sono suddiviso in settori. Anche qua nella mia casa c'è lo stesso mobile, è sempre montato così, però c'è, fortunatamente qua l'ho potuto diciamo allontanare dal muro dietro, in modo che possa passare e sistemare i cavi e fare quant'altro. Allora Fabrizio, come mi senti sempre a me? RM alto non lo sento più. Io lo sento. Mi ha detto adesso certamente Massimiliano che c'è molto problema e quindi ha difficoltà ad ascoltarti. Io ti ascolto ancora, tranquillamente ti sento. Non so come stia uscendo io, se mi stai ascoltando dammi un segnalito, grazie. E K, tu mi arrivi un 3,5 modulato. Un 3,5, perché sei in mezzo al QRM, riesco a copiarti pilo. A me mi arrivi Santiago 5 in questo momento, però di là che ti ascolto sempre bene, non c'è problema per ascoltarti, dai. Ti ha rilanciato, prova a fargli un passaggio. Oh, c'ho il QRM a 7, figurati, no, non sento niente, boh, no, non so se lui mi sente, boh, poi fatemi sapere voi. Riprendi Fabrizio se mi hai sentito, poi mi riferiranno. Sì, no, io li ascolto bene, tutte e tre li ascolto bene. Adesso magari sto salendo un attimino, dovrei selezionarlo, però sta un po'. In genere, addirittura quando sono venuto più vestando dovrei anche aumentare il segnale probabilmente. Avanti, salvato. Capa, piano piano come ti stai allontanando, che è più aperto, riesco a sentirti molto meglio. Infatti sei già arrivato a 5 come Santiago, e la radio inizia a essere già una radio di 3. E che tu così adesso Fabri, non so come stai ascoltando, ma penso bene perché quello di lì per me è anche favorevole, come per Massimiliano. Ma Salvatore, ragazzi, il microfono normale c'è già bene, non ha bisogno di nessun microfono, già di fa la voce bella con quel microfono. È bello, se io anche, guarda adesso no, domani se capita lo proviamo, lo faccio anche io quel microfono che sto usando. Salvatore, esce bene lo stesso, non ti credere, adesso sono altezza della cruca. Ah, e io ti faccio sentire sempre, come una super antenna. Ma, sì, l'originale, che credo non sia mai stato usato, perché è proprio nuovo, lucido, quindi... so che c'avevano l'MC60, però era stato venduto separatamente con un altro, credo con una radio d'ascolto, e lui mi ha mandato ovviamente l'originale, ma credo che non sia mai stato usato sinceramente. Ma lo senti? Sì, ma più basso adesso, ma già lo sento, ma io Fabrizio lo accompagno fino a Fiumessano tranquillamente, quando arrivo sotto quelle vetture a parcheggiare io lo accompagno fino a lì. Io non sento musica, disturbi e basta. Sono i guadagni che ci voglio. E vabbè, qua conta la posizione anche tipo l'antenna, eh. In questi casi qua il CQFA è superiore a mezz'onda. Ok. Ah, vero. Che sta parlando? Sta parlando. Ti sei stato io molto basso, se non so dove sei, ma sei basso basso anche tu. Probabilmente te la rompo. Avanti, Luca. Io non ho sentito per niente. Sono qua. Mamma mia. Intasato, Boh. È un guaglio di che... Vabbè, avvisaci quando stai arrivando proprio lì in prossimità di Porto Torres, così che siccome è più aperto probabilmente hai anche maggior tempo per fare anche tu a noi il controllo del segnale. Vabbè, però ho gamba. Sì, sì, ho copiato. Perfetto, che sto sistemando il computer. Luca, quanti miliardi hai perso oggi? No, allora dopo che sono, eh? No, oggi ho vinto, eh? Oggi ho vinto la bellezza di quasi 90 miliardi. Che dire? La verità è. Mi sento di tappare nei tapperoni con il deposito del trampolino. Mannaggia, questo è mio, mio, è cuasso, mio, voglio portare i butti, è mio. Io ma guarda che te lo fai un account su PS. Ma veramente? No, Playmoney sempre. Come si fa? Come devo entrare? Ma sei una chiavica sega, e come cosa deve fare? Scaricati fai il download del software, dopodiché ti fai la registrazione e hai subito mi sembra diano 500, ne diano all'inizio, e credo che se te le bruci non le puoi richiedere più di 3 volte e poi eventualmente devi aspettare, mi sembra, 2 giorni, una cosa del genere. Anche tu, fa su, ma stai vicino a me, fa su perfect, e almeno lì, da lì non è poco, dai, non è così malvagio, diciamo, dai. Se vuoi entrare, ti iscrivi su Facebook, ovviamente, entriamo fra poco. No, te l'ho detto che io su Facebook non ci bazzico, non ho la minima intenzione di lasciare nessuna nota. È per quello che ti ho detto se te la facevi tu. Così ci potevamo fare qualche heads up. Ne ho talmente tanti di questi poche che qualcuno lo mandò altro. No, perché era troppo. Diciamo troppo, dai, entri qua, bomba, entri là e perdi, cioè l'incasso poi si aumenta. Allora ho deciso di non farci più, cioè venga per esempio questo. Soprattutto sono entrato a prendere qualcosina, sono giocato, cioè se io sono un paio di giorni che non mi siedo. Esatto. Fabri, dove sei? Allora, ho capito, dai. Se tu prosegui dritto dove sei più versante, faccio capire dove sei, dai. Pare che anche ci siano dei pannelli sulla sinistra, ci siano dei pannelli di quelli fotovoltaici. Poi c'è un po' di QRM, se dirti è un problema, c'è un po' di QRM. Io ho smesso, non riesco più a sentirlo. Polizio, io lo sento più, Fabri. E se non ci senti più perché ti sei notato perché c'è un po' di QRM e abbiamo difficoltà a sentirti, Ritieniti salutato se non ci ascolti più. Ma c'è un po' di QRM, Fabri. Quando è pulito sì, ma oggi c'è molto QRM. Capito, Sei quasi arrivito. Ascoltate Fabrizio, mi sta chiamando, chi lo ascolta, venga avanti. Io l'ho copiato per qualche ho sentito, guarda, neanche parole, lettere, perché adesso è uscito sopra il 3 e quindi ho sentito qualcosina, però c'ho troppo cuore e non riesco a copiarlo più. Fabri, salutoni e buon trabacco, perché non ti copio più io. Vabbè, dai, non vinca io la partita oggi. Quindi ti saluto là, da parte di tutti, buon trabacco e buona nottata, dai. Avanti, sabato. Cappa, salutoni Fabri, mi dispiace ma non riesco più a sentirti io. E comunque, buon trabacco e buon tutto. Ci risentiamo sicuramente domani, se coincide. Ciao, Massimiliano. Aia, vabbè, stavo leggendo un articolo qua. Sciopero benzina per 15 giorni, signori. Da quando? Non si sa, è un messaggio di 20 minuti fa sulle news di Google. Allucinante. 15 giorni, come ti fai? Anche se metto il pieno del gas e trovo la benzina non mi basta. E vuol dire che ci sarà anche molto. Forse per l'8 novembre. Ma stai chiudendo, Sabato? Era Fabrizio che stavamo salutando. Ah, io non lo sentivo per niente. Sto aprendo anche uno su quel, eccolo qua. Sciopero per 15 giorni. Un po' benzinai annuncia, diciamo, sciopero di 15 giorni con gli esercenti che chiuderanno per 3 giorni di fila. Allora vediamo un po', l'8, 9 e 10 novembre, 3 giorni allora risulta. Ah, non 3. No, 15 giorni con gli esercenti e 3 giorni per noi. I gestori si fermano l'8, 9 e 10 novembre. Ha pagato, vabbè, 3 giorni già è superabile, ma il fatto che se fosse stato 15 giorni sarebbe stato un po' tribù, vabbè, metto un pieno di gas, un pieno di benzina e dovrebbero bastare. Ma però si può, l'agitazione poi potrebbe portarsi per 15 giorni, ecco com'era la cosa. Bubu, vabbè, andremo a piedi. Con lo sciopero non sono i benzinai che devono fare, lo dobbiamo fare noi, perché ci stanno prendendo per i fondelli, di giorno a cavolo ci sono aumenti di questo cacchio di benzina, di gas, di gasoli, di tutto. Lo so, però chi è che lo fa lo sciopero? Io e te e poi gli altri? Purtroppo non siamo mai coesi e uniti. E infatti, quello che non approfitta da chi ci va. Dovremmo essere tutti uniti e fare tutti insieme lo sciopero. Non andarci per una settimana, vedere se la bassa il prezzo della benzina. Lo so, però non è così semplice purtroppo. Se fossimo tutti quanti uniti, allora sì. Certo, ci vuole l'unione fa la forza. Cioè, si è fatto l'impiata a gas. Chi gli aveva giornati tu? Cosa dire? Che non mi aveva gas, io viaggio a gas e sempre il produttore. Mi parla sempre di benzina, non di gas. No, gas. Mi parla sempre di benzina però. Quando tu vai a gas devi mettere anche un sacco di benzina, perché la messa in moto la fa benzina e poi parte a gas. Quando raggiunge 30 gradi parte a gas da solo automaticamente. E ho capito, però tu mi parlavi sempre di benzina o di gas. Rispetto al gas è un bel conveniente, non è paragone. Se di benzina ne mettevo 60 euro con un pieno di gas, 25 euro ti dura tutta la settimana. Cavolo. Va bene, volevo anche un giorno. Bruciato di benzina e di gas con la macchina, ui. Vabbè. Normale, no? La macchina la mia è nuova. Dopo 9 anni, perché? Perché viaggia sempre sola. Certo. Non solo io che la guido, non c'è nessun altro che ci mette piedi, le mani, e quindi logicamente rimane nuova. Sono andato a fargli fare il preventivo per quel cacchio di tappa e gli sportivi di tracciare il trasparente, non ha chiesto 1450 euro, un altro 1003, altro 900 euro, a meno che sono bene, ho dato un bel preventivo. Quello che è stato più onesto è carrozzeria di Pedanita, veramente onesto, 900 euro, ma ti faccio tutto, ti faccio la lucida e tutto. L'ha fatta? No, non l'ho portata ancora, Lucas. Cari soldi adesso ancora, prossimo mese. Io l'ho piano, è un casino. Ti capisco già. Mamma mia, non sono stanco. Ok, voglio essere un... Oh, vabbè. Sembra così, ma la macchina consuma. Ho capito perché non mi apre la notifica su ma su Facebook non mi apre le notifiche già, ci mette un bel da aprire. No, io l'ho aperto un poco fa, era una cazzata, mi volevano infittare un gioco e cosa, ma l'ho aperto poco fa e me l'ha fatta aprire tranquillamente. Il Salvatore ha aperto Facebook poco fa, l'ha aperto velocemente. Invece buone notizie nel setup dell'installazione. Finalmente ho trovato i parametri giusti. Sta caricando l'OS finalmente. Lion, OS X 17 Lion. L'unica che non ti funzionerà è l'accelerazione grafica. Quella non ci si riesce a farla andare. Ho letto, però ho utilizzato quella Legacy Atti come scheda video e sta caricando, solo che stia andando. Sì, sì, fa tutto. Io addirittura quando l'avevo installato nativamente sull'Asus andava tutto, era tutto perfetto, però di accelerazione grafica non se ne parlava neanche niente, nulla da fare. Infatti poi l'avevo tolto perché senza quello lì non ci facevi niente, giusto video scrittura a quel punto ci potevi fare. Yeah. Ok, identifying your keyboard, gli avevo messo italiano e comunque se ne è fregato. Vabbè, ok, sta andando, no? Sono contento, questa l'avevi fatta almeno, vai. Ascolta, ma le vecchie VCL che caricavo sul Delphi 7 le carica su quest'altro o bisogna cercarne una altre? Parlo degli oggetti grafici. Altri. Sono cambiate tre release tra una cosa e l'altra. Perciò devo andare alla ricerca di altri. Ti ricordi io usavo manopoline, slider, LED, strumenti analogici, C e quant'altro. Guarda, ne dovresti provare, perché ti posso dire ad esempio che io per sviluppare prodotti con il database MySQL avevo acquistato i MyDuck Component e adesso li devo riacquistare perché non vanno bene con queste release, ma già dalla 9. Dalla 9 non andavano più bene, o dalla 8 addirittura. Cioè, con questa cosa qua non andrà neanche bene quel componente per la porta seriale, ti apro, che non è che ti apro in due, ma si chiama così, ti ricordi quel componente seriale? No, non ricordo. Comunque li devi provare, purtroppo. Sicuramente non funzionerà. Che era un componente per la gestione della seriale, era open source, però poi ho visto che non è stato più supportato, perciò sicuramente non ci sarà la versione diciamo aggiornata. È possibile. Beh, Massimiliano, Pars 2 sta finendo e quindi ce ne andiamo a nanna. Sì. Basta che questo lo lascio acceso così e me lo riprendo domani. Via. Vabbè, allora, stacco anch'io che è già tardi, che devo recuperare un po' di sonno. Ci sentiamo, buonanotte a tutti, Archimede fa chiudere la trasmissione, correttivo. A domani, ciao a tutti. Via, Gianni, anche io chiudo, ti lasciamo solo soletto. Ciao Massimiliano, ci sentiamo alle prossime, buon tutto, buon QRT. Ok, anche io chiudo, ciao Gianni, salutoni e buona continuazione se entra qualche un altro, se no alle prossime. Ciao, buonanotte. Buonanotte Salvatore, buonanotte anche a te, avanti. No, buonanotte Massimiliano, buonanotte Salvatore, a domani, ciao. Anch'io trovo molto. Sono quasi 11, mi cala la parte da Cicco. Sono stanco, molto stanco. Senti Cicco, salutoni anche a te. Installati quel software là che ci facciamo una zap, dai che ci facciamo due risate. Ah, domani mi muovo a spedirmi già, sono disconnesso. No, mica adesso, io stavo spegnendo per andarmi a dormire, mica ora. Appunto. Ci siamo capiti. Buon tutto, buonanotte. Ciao Gianni, ciao Luca e ciao gli amici che ci stanno ascoltando. Ciao a tutti, arrivederci. Un ritiro da parte mia. Ciao, sono fatto buono.